Bentornati a Rock Legends su Radio RCS l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti, che questa sera sono in Viaggio Segreto. Allora, 98.6 per la bassa veronese, la zona della Lessinia, 101.5 per Verona città e rimanente provincia e 91.5 per la zona lago. E in web streaming potete ascoltare Radio RCS su www.radiorcs.it. Continuiamo con alcuni dei pilastri del rock inglese degli anni Ottanta. Come brano iniziale di questa seconda parte abbiamo ascoltato The Killing Moon degli Echo and the Bunnymen dal disco Ocean Rain del 1984, band di culto del panorama dark wave che con questo album accentua le sue inclinazioni malinconiche e poetiche. Che ne dite? Beh, Jean-Luc, io ti devo ringraziare perché hai messo su una canzone meravigliosa, molto evocativa, che mi ha fatto venire in mente uno dei miei film preferiti, che è Donnie Darko. Io, oltre ad essere appassionato di musica, sono anche appassionato di cinema, quindi il film lo ricordo molto bene e mi era piaciuto molto. E la canzone è forse stata uno degli inserimenti più azzeccati come commento musicale per un film, perché si è adatta molto bene alle tematiche proprio poetiche, ma anche un po' allucinate e un po' destabilizzanti del film. E quindi è un brano veramente indimenticabile, bellissimo. Poi, se posso dire la mia, poi... Certo. Ascoltato dopo 30 anni, avrà più di 30 anni questa canzone. 1984. 84, quindi... riascoltato adesso, pensando che era una band di culto del panorama wave dark, riascoltato adesso invece ha un'armonia, una melodia straordinaria e peraltro molto semplice, quindi il tempo passa ma le belle canzoni restano. Certamente. Due è il titolo del vostro disco, una parola molto semplice che immagino stia a significare il vostro nuovo inizio in questa dimensione più ristretta. Ma sì, due è un titolo molto semplice, come dice, effettivamente l'abbiamo scelto perché primo perché siamo in due, è già questo. Poi perché è il secondo disco ufficiale della band e in più perché sono praticamente 20 anni che suoniamo insieme, quindi questo due quest'anno nel 2011 cominciava ad essere abbastanza impegnativo e ripetitivo. E quindi avevamo bisogno anche di un titolo che fosse immediato ma e coinciso, anche per avere proprio un punto di riferimento proprio nella creazione, nel processo creativo stesso del disco. E quello ci sembrava il modo più semplice e più immediato. Nel rock inglese degli anni 80 emerge anche una chitarrista americana trapiantata a Londra, Chrissie Hynde, con i suoi Pretenders. Iniziato il cammino nel 1979 con buon successo, arriva al terzo disco Learning to Crawl nel 1982 e da qui ci ascoltiamo Middle of the Road. To find me, I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't try dragging my bay or dropping the bomb on my street. Come on, baby, get in the road. Come on now, in the middle of the road, yeah. Of the road, we see the darndest things, like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits, past corrugated tin shacks full of with cancer. Man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Come on now. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be, I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now, in the middle of the road. Sonorità semplici con un occhio agli anni 60 che ha sempre caratterizzato i Pretenders nel corso degli anni, nonostante un calo di popolarità li ha portati fino ai giorni nostri. Che ne dite? Ma direi di sì, qua un brano direi prettamente rock and roll questo, no? Nel senso proprio classico rock, eccetera, quindi sempre efficace, sempre efficace. Vostri ascolti musicali, quali sono e quanto influenzano la composizione dei vostri nuovi brani? Beh, le nostre influenze, vuol dire musicali. Certo, musicali, cosa ascoltate, insomma. Noi ascoltiamo tantissima musica in realtà. Poi è chiaro che ci sono due o tre artisti in particolare che ci hanno influenzato tantissimo. Beh, i Police, come dicevo prima, chiaramente. Beh, ma anche gli U2, sicuramente. Beh, assolutamente. Beh, Pearl Jam, noi tra l'altro ti dico che il Viaggio Segreto è nato agli albori del grunge. Noi siamo nati nei primi anni, certo, 90, e quindi abbiamo risentito inizialmente anche proprio dei Nirvana, dei Pearl Jam, di Alice in Chains, Soundgarden, cioè tutta quella realtà di Seattle che stava nascendo proprio all'inizio degli anni 90. Poi su certi aspetti ce li siamo portati dietro, poi siamo un po' maturati, siamo cambiati, abbiamo avuto tante influenze, però anche in questo disco ultimo ci sono alcuni brani in cui ci sono alcune parti in cui le chitarre sono molto aggressive, molto dry, molto secche, e che forse in qualche modo risentono ancora di quell'influenza, tanto più che i Pearl Jam sono ancora molto forti anche oggi, e sono molto attuali anche attualmente, quindi sì, queste sono più o meno le nostre influenze, quelle più importanti. Nelle parti più melodiche a volte viene fuori un po' di Sting, anche sempre le rimando ai Police. Sì, perché ti dicevo anche prima, ce li abbiamo, li ascoltiamo, io ancora adesso ascolto Sting, ascolto i Police in macchina, li ascolto quotidianamente, buona, esatto. Chiudiamo allora la seconda parte con i Dire Straits, la band di Mark Knopfler, recentemente passato assieme a Bob Dylan in Italia per un suo tour, dal disco Making Movies del 1980 con la ballad Romeo and Juliet. Nella terza e quarta parte ascolteremo sei brani del disco di Viaggio Segreto dal titolo 2. Stay tuned! Low, with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet any of you exploded into my heart. And I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same, and I dream your dream.